1, 2, 3, 4, 5, prova. Vediamo un po', prova. 1, 2, 3, 4, 5, prova la modulazione, oh yeah. Che è avanti? Perché stai uscendo così? E come sto uscendo tu? No, aspetta un attimo, aspetta. Avanti. Sì, sono in macchina, come vado? Ma stai uscendo male, pieno di rumori. Io pensavo che dipendeva da me, no, non dipende da me. Ehi, ma come Natalino? Va Natalino, Giulio. Stai uscendo Marco, stai uscendo malissimo, c'hai un rumoraccio, Marco. Che è avanti? Ma stai uscendo con un rumoraccio, cos'è che ha? Mike. È un rumore di microfono, ma c'è un rumoraccio fortissimo che ti copre quasi la voce. Vabbè dai, niente da fare, dai sentiamo, ciao. Adesso sei uscito bene, vedi, in questo passaggio sei uscito bene. Marco, adesso sei uscito bene. Eia, conta che sono a vetri aperti, cioè sono in movimento, non so da cosa dipenda. Sarà stato magari il rumore di macchina, non lo so. Vabbè, adesso dai, sembra che stia uscendo bene. Eia, sto andando a far benzina, Va bene, ci sentiamo allora, dai, ciao, ciao Marco. Sì, c'è qualcosa che non... Aspetta. A colpi, sono fermo adesso, Prova. Lo vedo anch'io. Bene, oppure uno decide andare su questa cona, vuol dire che sarà qua sicuramente a posto, perché sì, c'è un sacco di cosucce, però adesso la proviamo e vediamo un po'. Ci abbiamo lavorato pesantemente, ma sembra che vada bene. No, io quando l'ho preso, certo qua l'ho preso da fuori, qua non l'ho preso, però da Tecnocomunicazioni, che praticamente era una ditta dove mi sono sempre servito, e loro facevano le fiere, capito? E mi ha detto che mi avvisava quando ne entrava qualcuno buono, perché sapeva già i miei gusti, non devono avere graffi, devono essere perfetti, se no non mi piace. Beh, fatto sta che mi ha chiamato, mi ha detto: Gianni, guarda che ho ritirato 140 nuovo, l'ho messo, l'ho testato e tutto, non c'ha niente da fare, è stato trattato benissimo. E insieme a lui ho ritirato un microfono che però nemmeno un MC60, che nemmeno te lo do perché è consumato in alcune parti, io so, conosco i tuoi gusti, quindi te lo dico, però so già che non lo voglio, infatti ho detto no, non lo voglio, me lo mandi nuovo. E ho preso il microfono nuovo, 170 euro, e l'apparecchio l'ho pagato 300 euro, è sempre andato bene. Ho capito. No, questo lo sai che cos'è? Che quando prendi questi apparecchi, o è così, te lo prendo in un negozio, un laboratorio dove magari lo ripristina, se fosse nessun altro, allora va bene. Però da privati che non conosci, oppure conosci la persona di qualche romano, tranquillo, ha questo problema, non ha niente, se no non fa. A cui alcuni apparecchi devi conoscere, il 440 lo devi prendere se hanno rifatto i WC, o se no lascialo stare che sono da rifare. Adesso ne ho uno, 440 l'ho comprato io, ma quando uscirà da qua, secondo me è quasi come la scatola, perché siccome cosa è successo, ho preso così una profitta a chiacchierare, vediamo un po' se va. Allora, praticamente ho comprato un 440 che era tutto spento completamente, quello aperto, c'era il, visto che non era mai praticamente toccato, che avevano fatto molti magheggi dentro, era abbastanza, solo che aveva un sacco di problemi, accendeva, c'era display rotto, c'era tutto. Allora ne ho approfittato, mi stavano questi ricardini, ho detto beh, intanto devo fare anche il mio, perché una volta che entrano da me questi apparecchi che li revisiono tutti, poi gli faccio anche la parte estetica. Allora, siccome ho trovato la vernice originale, ma non è che lo faccio a bomboletta, lo faccio a compressore con le vernici bicomponente, quelle da carrozzieri, per capirci, quindi ho trovato la vernice, lo stesso identico, se la vuol dire, io faccio anche i frontalini, sto riverniciando le cornici esterne, e quando prendo il nastro, perché ovviamente non vernicio le scritte, tu non ti rendi conto che il frontalino è stato rifatto, per dirti la perfezione del colore, i bordi non te ne rendi conto, e una volta fatto quello, allora ho fatto il mio, allora avevo questo ricarino, mi stavo dicendo, devo fare sì, che faccio anche questo, e faccio tornare in lui, perché mentre dovevo esportare la pistola, perché quindi quando stai spruzzando due cofani, spruzzarne quattro cofani e due mascherine è uguale, no? E quindi ho fatto questo, quindi volevo finirlo. E poi c'ho quest'altro 440 che praticamente sembrava, cioè io avevo preso la scatola chiusa, non sapevo dove ci poteva essere dentro, con quello che avevo, sì, avendo un sacco di pezzi di ricambio, per esempio questo 430 sono riuscito a ripararla perché avevo potenziometri, commutatori che erano partiti, un sacco di pezzi di radio, e nel mio lo stesso ne avevo, quindi ho cambiato il frontalino, ho cambiato l'altro 430. Sta intermodulando. Sta gracchiando, te lo stavo per dire io. E intermodulando, sta più che gracchiando, ciao Gian. C'è un rientro DRF sull'oscillatore, Fabri. Sì, ha sganciato nuovamente. Sì, c'hai un rientro di RF sull'oscillatore, Fabri, sta intermodulando, un gracchiare allucinante. Adesso come sta uscendo? No. Che problemi riscontri in questo momento? Fabri, per me sta gracchiando, non sembra che sia una intermodulazione sull'oscillatore, qualcosa di rientro sull'oscillatore. Allora, adesso ho riabbassato, 1, 2, 3, 4, forse era il mic gain oppure sta entrando? No, Fabri. Aspetta che cambio una cosa, che così vi sento meglio, che manca il filtro in questa radio, aspetta. Ma senza filtro è quella. Guarda, stavo uscendo bene fino a poco fa, come ha scaldato ho cominciato a gracchiare. Esatto Gianni, quel gracchiare che senti è un'intermodulazione, un rientro di frequenza, un rientro di RF sull'oscillatore della M. Ecco qua, così mi sento meglio senza filtro, adesso ho fatto un pompicello. Ma non ci siamo Fabri. E come ha scaldato Fabri che ha cominciato a gracchiare? Ma questi sono difetti che non è così più furi, Ma non ne ha perché filtro NEM con la radio? No. Minchia, cazzo, senza filtro NEM 430 è morto, Si può fare un po' che però poi prendi un bel di colpi da tutte le parti. Ma quella modifica avevo sentito. Porca miseria, si è preso un'incolata con questo 430, cazzo. Sono già radio adattate, poi ci vengono smanettate ancora B. Adesso comunque ho messo un microfono da palmo, dai, che così vediamo un attimino. Si è perfezionato tutto. Ce va meglio. Proviamo a parlare su un altro po', vediamo col microfono da palmo cosa succede. Ti dicevo già con quell'altro, quel 440 invece ho sostituito il display, ho riverniciato i cofani ed è come nuovo. Adesso ho un oscillatore che non mi oscilla, non riesco a capire perché l'ho messa via, adesso vediamo un po' se riesco a farlo oscillare, devo lavorarci, perché è tutto a posto, ma non mi era mai capitato una cosa del genere. E quindi adesso è ferma, però anche quella se riesco a metterla a posto è una bella radio. Lo so. Adesso che dipende dal microfono, che abbia problemi al microfono, dici, perché adesso sta uscendo bene. Prima con l'altro microfono ci va gracchiando. No, vabbè, me lo metto probabilmente, non vorrei che c'era il Mickey Gain, magari stava scaldando troppo alto, non lo so, quello non te lo so dire. Perché voglio adesso provarlo un attimino, perché ha sganciato nuovamente, vorrei capire cosa succede, solo che non è semplice quando fa questi difetti, perché sgancia, cosa cavo, poi non è che te lo fai di continuo, adesso vediamo un po', perché se no diventa troppo problematico, cioè ho buttato già tante di quelle ore sopra che ne ho la nausea. Ma secondo me sta gracchiando ancora. Prova Fabri. Guarda un attimino, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, però se gracchia e poi sgancia, non so nemmeno dove intervenire adesso. Sì, ma è molto meno di prima, molto meno, appena brucio, è qualcosa da regolare, da registrare forse. Allora, 1, 2, 3, adesso col microfono normale, però è strano, posso mettere, adesso metto l'altro. Microfono normale è logico che gracchia meno, col microfono preficcato spinge di più e quindi gracchia di più. Prova. Magari ce ne abbasserò un po' il microfono, ecco, adesso sono con l'MC60. Ni, un po' così è la radio, non è chiara sempre per me, poi non so. Adesso scende un po' in potenza. Sembra che ti stia mangiando un po' la radio, come quando c'è il lineare attaccato che non è... sembra un po' compressa, capito? Ma devo regolare, se io sono leggermente la potenza, non molto, sono meno forte che non so lo strumento. Il Mickey Gain ce l'ho a 2, più o meno. A Santiago 5 metterò il carrier Fabri. C'è la 5, ma non sono tutti uguali per la sua caratura. No, io quasi quasi non ti capisco più adesso. Stai peggiorando Fabri. 1, 2, 3, prova, adesso abbassato un po' la potenza, magari era troppo, adesso dovrei attaccare lo strumento per vedere quanti watt mi sta dando. Vabbè, il mio Santiago 5 è intorno ai 20 watt, 25 watt, ma l'avevamo già messo, adesso mi ricordo cos'è, vabbè, però più o meno, no vabbè, quello che aveva, Massimiliano, che l'avevamo regolato a Santiago 5 era 25 watt, non è quello lì. Aspetta che attacco lo strumento. Già, mi stai ascoltando bene? Sì. Adesso col baracchino 5 watt, 8 watt dai modulati. Quindi rivedi la propagazione. Si è aperta un po', ho visto anche in 10 metri c'era un po' di propagazione, sta aprendo. Poca roba, tempo di merda. Ma quest'anno non è che sia così. Ogni tanto, una settimana e poi sta 2-3 settimane che non si sente nulla. E riprende il tempo, in Alta Italia, ha visto il casino che sta facendo, il tempo brutto. Lo so. Di cavolo, guarda, noi siamo fortunati, non abbiamo terremoti, non abbiamo alluvioni, e ci ripeto rigore, ma grazie a Dio siamo fortunati. E noi dobbiamo stare attenti ai fiumi. Nel sud, Capoterra, quella zona lì, ha fatto un sacco di casino qualche anno fa, quindi bisogna stare attenti alle grandi piogge, ma non è che, come hai detto tu, siamo un po' riparati rispetto all'Alta Italia. Ma grazie a Dio, per dire, terremoti non ne abbiamo mai avuto, a quanto pare possiamo avere solo il maremoto. Se abbiamo il maremoto siamo buttiti, che ci sotterra tutti quanti. E il maremoto per noi è come uno tsunami, però la Sardegna non è zona sismica, quindi non abbiamo questi grandi problemi anche per il maremoto. Capito? Vabbè, non parliamo di queste cose, per carità, che cosa brutta. E beh, Fabri, con la radio non l'hanno tutta toccata, te l'ho rimandata. Riduta chi non si via, chi la viene toccata non riesce a regalarne B e l'hanno venduta. Hola. Chi è? Che cazzo chi è? Non stavo uscendo. Ho detto non mi ha ascoltato, perché quando me l'ha detto, ho detto guarda che in Sardegna ce ne sono tante di quelle radio, se ti interessano. Io la mia non la do, però ho detto ce n'è, se mi dai un po' di tempo te la procuro. E poi si va e si prende in Sardegna, però io sono andato, ho fatto 250 km per andare a comprare una radio, capito? È molto pericoloso, soprattutto questi K, se te lo danno che non sono allineati, no, soprattutto il 440 che non è stato fatto da parte del VCO eccetera, ti lasciano a piedi, capito? Invece lui non mi ha ascoltato, ha preso, se l'ha ordinato, ecco lì che ha preso l'inculata. Vabbè, già succede a tutti, e oggi ho messo 200 euro su internet, perché si chiamano a me? E perché no, ho preso anche io, a te mi hai buttato un mattone, a te te ne hai mandato un galax a bagno l'acqua, a me mi hai mandato un mattone invece. Beh, allora potrei continuare a fare a gas. Ma mancava l'uscimento, la sabbia, Ofra, capito? Dal coso, vicino a Napoli, provincia di Napoli. Tu figurati che hanno calcolato il peso della radio, no? E la grandezza della radio, l'hanno imbuttato di mattone dentro, capito? Io quando sono andato a ritirarlo ho preso, e tu già c'è la radio, cazzo, il peso c'è, apro e vedrai i mattoni dentro. Tu chiamerai e dici, il mattone me l'hai mandato, non ci metto. Quello che quando ho fatto la denuncia la polizia postale mi ha detto che questi erano recidivi già da 5-6 anni, cazzo, continuate a non toglierli dalla rete, non ho capito. Ecco, buonasera per gli amici dell'Isola Santa, le stesse 50 sulla provincia di Catania, saluta. Cappa, buonasera anche a voi. La stazione Doppio Rum, città di Sassari, nord Sardegna, in compagnia di amici, avanti. Cappa, io saluto tutti gli amici dell'Isola Santa, Salvatore che saluta, salutate anche il Vulcano. Cappa, sarà fatto, quando lo sentiamo lo salutiamo, dai. Avanti Franco, riprendi tu, parla amico. Cappa, dai, saluto Salvatore. Rimango in stand-by, rimango che sto facendo cose. Ciao Salvatore, ben ascoltato. Franco, sempre da qua, dalla provincia di Sassari. Ciao Franco, Isola Sarda anche tu. Un forte abbraccio a te famiglia e a tutti gli amici dell'Isola Sarda. Un forte abbraccio grande cambio. Avanti Claudio, riprendi. Rimango in stand-by un attimino che c'ho Salvatore andando. Ciao. Ciao Fra, ciao, non lo so se mi copia, ma io sono con baracchino, 5 watt. Ciao Salvatore, buonasera, Claudio da Sassari, avanti. Sì, ciao Claudio, buonasera, ben sentito, sulla provincia di Catania, Salvatore che saluta e t'abbraccio. sono Salvatore 659 più 10, e complimenti per la tua ben forma. Io sono con un baracchino vintage, un microfono a tavolo 5 watt e 5 8 watt modulati. Ti passo Gianni che sicuramente arriva molto meglio, vai Gianni. Ehi, molto meglio, sono col Galaxy anch'io, sono con un apparecchio vintage anch'io, con un Galaxy Saturn Echo, liscio, non sto usando nulla. Vediamo un po' come ti arrivo lì in quelle zone, tu mi arrivi 9,5 qua, molto, anzi 9, non 9,5,9, ne arrivi con la radio di 5, è perfetta, dai, avanti, complimenti, K. Vabbè, comunque io sono liscio liscio adesso, sono liscio, quindi è comprensibile, dai, magari la zona non è favorevole. Adesso sei 4, anche tu. Che importante arrivare Gianni a voi, se abbiamo 5 watt non è che possiamo arrivare 9,30. Salvatore, mi ascolti? Ho capito Salvatore, quanto mi ascolti? Si è abbassato. Ok, ok, si è abbassato, porca miseria, sei segnale 5, 4,5 anche tu qua, prima arrivavi 9 più 10. Va bene, prove tecniche superate, caspita. Con 5 watt stiamo andando di lusso, vai Gianni. Io adesso sto provando con l'aiutino, dai, vediamo un pochettino come ti arrivo così, dai. Adesso sto provando con l'aiutino, come ti arrivo? Non ho capito, sta sparendo, dai. In questo passaggio si è arrivato 9 più e radio 5. KK, dai, già va bene allora, già funziona. senta Fanima, adesso ti stai abbassando, la propagatore è abbassata, ti ascolto, Santiago 1,5, la radio di 2, dai. Si sta abbassando, prima ti sentivo con un segnale da 7 a 9 e la radio era 5. K, Salvatore, ti salutiamo anche noi. Un forte abbraccio anche a voi, dai. Ti saluterò Vulcano, come lo sentiamo, ce l'abbiamo qua vicino a Gigi. Avanti, spari. Ciao Salvatore, un abbraccio anche a te, alle prossime. Sì, sei calato, la propagazione sta sparendo, dai. Ciao, alle prossime Salvatore. Quando sentiremo a Gigi, il primo che lo sente lo saluta. Ciao, grazie. Salute, boh, non mi ha inteso più. Ehi, perché se ne sta andando? Piano piano se ne stava scendendo. Anche lui di segnale da 7 a 9 è arrivato 3, poi 1. E poi non lo stavo quasi più sentendo di voce. Strano, la propagazione è un po' ballerina. Vabbè, dai, vediamo se Fabrizio sta ancora lavorando. Mamma mia, pazienza Reda, vai. È molto appassionato, però uno perde anche la pazienza dopo. se non va come deve andare ti prende la pazienza. Anche io l'altra volta con quel microfono stavo per buttarselo via, poi alla fine ho fatto l'ultimo tentativo e mi è riuscito. Usciva male, questo e quell'altro, ed era la capsula che stava partendo. Io ne ho aperto un altro giorno, volevo cambiare la capsula, l'ho staccata, sono andato a mettere la capsula saldata nel filo uno con uno con l'altro, lo chiudo tranquillo, vado a modulare e non esce il mio microfono. L'ho preso, l'ho messo nel cassetto, non voglio stare sia abili e luci. Ho la capsula che non funziona, ma non ho fatto niente, ho staccato due fili ho attaccato. C'è la biglia e luci, non mi interessa. Avrai invertiti i fili, volevo attaccare uno dall'altro all'inverso. Prova a invertire i fili, poi mi dà la risposta. Se c'è l'LB più 5 per sapere se esce, basta che tu premi il pulsante, fischi e guardi, se si muove la lancetta vuol dire che sta uscendo. Non c'è bisogno manco di attaccarlo alla parete. Oh già, cos'è il più 5? Il più 5 è questo, sto modulando, questo l'ho comprato da Gigi, è una bomba, ce l'ho a 2, la capsula l'ha fatta tutta Gigi, questa la modifica. Poi ne ho un altro, il più 5, che è normale, però c'è la capsula lo stesso cambiata, esce bene lo stesso. No, microfono normale sto dicendo, microfono normale di questa radio. Non mi piaceva la modulazione, avevo un'altra capsula, ho staccato un filo e ho saldato, ho staccato l'altro filo, ho saldato, l'ho messo nella sua spugnettina, l'ho chiuso, vado a modulare e non esce più un microfono. Non è male, deve essere la capsula bruciata. Hai sentite i fili, fidati, prova di saldarli e metterli all'inverso. Quello che hai messo da una parte lo metti dall'altra e viceversa. E poi mi fai sapere. Faccio così, adesso non ne ho voglia. Magari domani mi metto e lo faccio. Perché funzionava, solo non mi piaceva la modulazione, avevo diverse capsule. Ne ho attaccato una e ne ho i CB. Ah, gli trovai che la boy va, l'ho preso, ho messo la cassetta, adesso appena c'ho 5 minuti. Lo prendo lo facciamo, quello che dico. È successo anche a me con l'NV+5, avevo invertito i fili e non funzionava, poi però vabbè con l'NV+5 ti distruggete più facile, perché primi fischi, se vedi che la lancetta si muove vuol dire che sta funzionando. Ho provato, non funzionava, li ho invertito i fili e è andato bene. Se così mi dici, così facciamo, cosa vi dici? Io ne faccio pochi di queste cose, no? C'ho tutti i microfoni da tavolo, ma volevo migliorare quel microfono da palmo, invece era giù bigiurato. Allora l'ho messo a parte. Va bene, dammi 5 minuti Gianni, che mi devo allontanare. Aspetta, se Fabrizio ha bisogno di qualche controllo, già ci sei tu qual è? Io sono qua. Ciao ragazzi. Poi, grazie per il ragazzi. E allora Marco? Nero sono, quello che usciva con un fischio poco fa sul 40, no? Non usciva di radio, un rientro di RF. Saluto Claudio anche, che sento dopo quei giorni di bianco. Niente. Rientro, hai ragione tu già, non tutti i baracchini vanno bene in macchina. Ti spiegherò in dettaglio, però ho provato a togliere la magnetica, ho messo l'antenna sulla staffa laterale con la massa effettiva, niente, rientro di RF, non è utilizzabile in macchina, ma le bestemmie che ho tirato. Quale ti ha dato Marco in macchina? Hai il tubo sul 40. Ehi, ho messo il monitor, sento questo fischio. Allora ho preso il più potente, il 9900 CRT, messo in macchina, non va, probabilmente il cavo troppo lungo, c'è un cavo di 1,5 metri di alimentazione, il cavo che esce dalla batteria è anche lui troppo lungo, quindi sicuramente passa da lì e rientro, va bene, pazienza, accantoniamo tutto, c'ha ragione Claudio, non sono radio, questi sono baracchini, non valgono niente, non valgono. Marco, io ti dico una cosa, allora ho fatto la prova a mettere la RAM 48 modificata in macchina, no ieri, ma lo sai che premevi la portata e si accendeva e tutto, premevi la portata e non si muoveva, ma con la lancetta, QRM0, arrivo a casa, lo provo e andava bene. Eccolo. Avanti Fabio. Ecco qua, no, ho messo uno smicro, aspetta faccio una prova, allora, io ero praticamente così, i 60 watt stavo scendendo, forse per quello, dovevi tenere a circa 20, quindi se qua non vedi, vabbè, perfetto. Adesso vedi un attimino, adesso lo tengo un po', facciamo un po' di passaggio e lo proviamo così per vedere come va. Adesso stai gracchiando. Sta gracchiando, cosa intendi tu per gracchiare già? Non riesco a capire, gracchiare, che tipo di gracchiare fa per capirmi, non riesco a capire. Aspetta, Fabri, è come se fosse un po' vibrata. Va bene, aspetta, mi fa una cosa e poi provo il rientro. Quando la radio non è chiara, fa così, capito? Sì, diciamo sì, risulta vibrata, sì, la voce. Non è una voce naturale, diciamo candida. Hai capito cosa mi è successo Marco? Ho provato la 48 in macchina, attacco, la CD sigla, accende tutto quanto, metto l'antenna sopra il coso, attacco l'apparato, non si muoveva manco la lancetta, premevo, non si muoveva, QRM0, ho pensato che fosse l'altidino che ho messo, non è nemmeno quello, perché l'altro giorno poi ci ho pensato, l'ho provato con l'altro baracchino, forse è l'attacco proprio della batteria che ci vuole, perché non ce la fa la CD sigari e quindi non va l'apparecchio. Vabbè, comunque ti ho sentito ieri, per quello che ho detto la stessa cosa, certi non vanno bene in macchina, boh. Secondo me un veicolare in macchina non deve andare bene, vabbè, pazienza, dai, io mi assento, vado via, ciao già, ciao a tutti, a dopo. Ma nervoso sei stasera Marco, a futti dimmi, sono giusto, vi mettete una apparecchio e basta, tutto lì. Ciao Marco, buona serata. E averlo saputo prima, però già, averlo saputo prima avrei messo un altro, 3009 ero a posto, vabbè, c'è un break, avanti. Avanti, ciao, che da Ruggito, l'antenna messa a posto, ma. Adesso se Santiago sì, dice o sì, allora tu c'è la Ringo, beh, io su quell'antenna lì ho letto tanti forum che quando piove si riempie di acqua, da stazionarie, sconsigliavano totalmente l'acquisto, sconsigliavano tutti l'acquisto, per chi l'ha avuta si è lamentato che si rende di stazionare quando piove, bisogna isolarla bene nel PL e mettervi nastro vulcanizzante, poi nastro sopra e se necessario anche un po' di grasso di modo che isoli il PL eccetera eccetera, e nelle aggiunture bisogna isolarla bene di modo che non possa entrare umidità. E sta arrivando quasi sì, se sei liscio, sta arrivando quasi sì la radio 5. Però già, prima di comprare con l'antenna, bastava che guardassi su internet, ci sono i forum dove c'è scritto che praticamente questa antenna qua c'ha il difetto che quando piove si riempie di acqua, entra umidità, insomma, si alza una stazionale a gogo. Ina tornato qui, c'è Fabrizio, sta facendo le prove, e poi Claudio e Corix. Quello che stavo dicendo, vabbè, almeno ti sei abbronzata senza spendere benzina per andare al mare. Via. E comunque adesso già va meglio, meglio di come stavo andando ieri, sta andando. Però è quel tipo, ma le altre tanche, capito? L'hai anche alzata l'antenna o no? Sì, liscio, no, ho detto sei liscio, e se sei liscio va bene, 9 più 10 a me mi stai arrivando, l'altro giorno mi stava arrivando a Santiago 7, quindi penso che hai fatto un buon lavoro, adesso bisogna vedere se rimane così. Sì, va bene, 9 più 10, ti ripeto, l'importante è come ti ha detto Gianni che isoli bene, o metti del grasso, isola bene il PL, perché quell'antenna, come ti ha detto Gianni, ha un difetto, e l'ho letto anche io, ha un difetto che quando piove, se non è isolata bene, si carica di stazionarie. Ora bisogna vedere se questo caricamento è dovuto solo dall'umidità oppure se entra acqua da qualche parte, capito? Quindi il gioco è isolarla bene da tutto, anche con del grasso di vasellina, del grasso sopra il PL, in dove ci sono gli attacchi della bobina, dove c'è la spirale, cercare di isolarla il più possibile e vedere un po' se ti fa difetto, perché se il difetto te lo fa lo stesso, allora entra dal tubo centrale l'acqua, da qualche parte entra quest'acqua, capito? Oppure, come ti ho detto, anche l'umidità le fa questo difetto. Vai Gianni. No, vabbè, per il momento già stai uscendo bene, capito? Per il momento va bene. E non c'è bisogno di usare l'accordatore, se ce n'è uno e due, che accordatore usi? Non devi usare l'accordatore, perché l'accordatore ti ruba segnale. Se ce l'hai a 1 e 2 va bene così. Prova, vediamo un po'. Ah, stai modulando un po' di più, c'è cioè più picchi positivi, però il segnale è sempre 9 più 10. Da Gianni magari che è più distante. Gianni, da te qualcosa è aumentato. Ma stavo qua, sto guardando il telefono, prova. Marito, va. Sì, senza l'accordatore qualche cosina è aumentato. Poco, ma è aumentato. A meno di un segnale, dai. Il segnale è aumentato. Quindi lasciala staccata, se c'è uno e due che cavolo attacchi a fare? Rientro dopo, sono al telefono. Meno due minuti già, scusa che sono al telefono. Gianni. No, Roberto. Greco. Ciao già, Fabrizio sempre. Sta gracchiando sempre, no? No. Vabbè, c'è un pochettino qua, aspetta. Vieni, vieni, buffone. Un grosso problema, lei sta registrando 20, anche di meno nel posto orario, deve stare sui 20 watt e il resto modulati. Adesso ha ricominciato a gracchiare, mamma mia, il primo passaggio lo stavi gracchiando, poi come ha fatto il secondo passaggio ha cominciato a gracchiare di nuovo. Guarda se cambia qualcosa, così, 1, 2, 3, prova, ma adesso sto facendo una prova, devo riuscire a capire, se no sono in muoio. Sta sempre gracchiando? Sì. stiamo sempre gracchiando, sì. Fa passaggio lungo. Guarda un po' se sta sempre gracchiando. Sì, sempre un pochino adesso. No, non tanto, però un pochino sì. Allora, aspetta. Basso in quella corrente, sta ancora gracchiando? Sì. Allora, guarda qua, adesso in questo passaggio, questo è il passaggio 1, e questo è l'altro passaggio, quello sta sempre gracchiando. Sì, sì, sempre. Non so più, è entrata tutta la catena. Capri 2, tu come lo senti? Capri 2. Ascolta, ho tolto il processore, come ti sembra senza processore? Ottimo! Allora, ho aumentato un po' il Mickey Gain, adesso sono senza processore, vediamo se può essere il processore. Sì, sì, va bene. Adesso continuo a fare un paio di passaggi, continuo a fare una chiacchierata. Allora, lui la deve tenere, la deve mettere intorno a... 9,20 come lancetta, e il Mickey Gain lo mette a 4, ce l'ho. Quindi il processore non si può utilizzare, se no la fa gracchiare così. Perché probabilmente è tirata, adesso vedo un po' di rilivellare anche il processore, ma cioè, decine di ore ci ho buttato sopra questo gioco, non ne busso più. Lo so, sono cose che, se è una cosa che magari si consuma, la cambi, buonanotte, ma quando si muovono i rimani devi stare a cercare tutto, devi controllare tutto, dove sono state messe le mani, eccetera, eccetera. Lo so che è così. Poi ho fatto un po' di modifiche perché c'erano da fare delle modifiche, dei richiami che fa la Kenwood, capito? La Kenwood fa dei richiami, quindi ho dei richiami della Kenwood, ho messo a posto questi cazzo di richiami, questa radio, questa è un 430, volendo ha la possibilità di fare un saccaccio di modifiche per migliorare questo, migliorare l'altro, la ricezione, un sacco di cose. Perché così non ne vale la pena. E c'era un problema, io ho provato per curiosità a mettere un'altra scheda mia che avevo, no? Per capire. E lei praticamente andava in tilt la radio con quella scheda. Poi ho fatto questa modifica su un'altra scheda, sulla control unit, e la scheda mia è iniziata ad andare, era proprio vero, perché questa radio non gli arrivava la corrente, c'è dei richiami, ogni tanto la Kenwood fanno dei richiami, dai, questo era un richiamo da mettere a posto. Infatti adesso Riccardino sto usando la mia, quando gli ridò questa, ci vuole mezz'ora di lavoro, bisogna togliere i cofani e tirare giù la scheda e cambiare un condensatore e una resistenza. Come arriva lo faccio anche alla mia, che male non gli fa. Lo puoi usare come radio normale, diciamo, non ha la spinta del processore, ecco, quello che c'è. No, adesso vedo un attimino per accatenare il processore di controllarglielo, perché per il resto se non va in clip la radio, forse poco fa è andata in clip un paio di volte perché ero 60-70 watt di stavano, invece di lasciarla 20 watt in AM, se no poi clippano queste radio. E vediamo un po', se sto provando, no, perché se va bene così gliela chiudo e gliela do, capito perché? Vediamo un po', anche lo smitter, avevo toccato lo smitter, cacchio, mi ha fatto pensare, cioè ho perso tanto di quel tempo, tu non te l'immagini nemmeno, tanto di quel tempo, cercando, controllandomi tutte le tensioni, alla fine non ne cavavo piedi, ho detto ma perché va di sblatter questa radio, poi controllo, avevamo spostato un punticello come che ha il filtro, ma non avendo il filtro, gli hanno fatto una modifica, non avendo il filtro, cacchio, non esce a 6 kHz, ma uscivi uno spettro di larga banda, capito? Se non c'è a 3 kHz questa radio come e quindi via ritoccare, ho capito, e poi una volta visto quello, allora non è QRM, controllo praticamente lo smitter qua, si tira in due maniere, c'è l'S1 e l'S9, devi fare l'S0, c'ha tre tipi di... ho capito Fabio, ci vuole un po' di pazienza, quando sono toccate così molta gente ce ne mette da parte, non le fa nemmeno, dice no, è stata toccata, non te ne faccio. Avanti, chi è rimasto? Capri 2, ci sei. Ma che sto scendo così? Prova. Abbassa appena il microfono, sei troppo forte. Adesso sei chiarissimo, guarda, confronto a prima che arriva tutto bu bu bu bu bu bu. Non si capiva nulla. Sì, sei normale, sì. Cava. No, non lo fa adesso. Adesso la fa lì, ma si attacca. Aspetta che c'è qualcuno che ha mangiato scagnola. Avanti che sta fischiando. Io ho questo fischio. Vabbè, se lo vuoi provare 5 minuti per vedere se rende. Gianni? Sì. Ecco l'apparecchio incriminato. A casa va di un bene. Pensa, la macchina non l'avevo mai messo. E macchina rientra di DRF a gogo. Niente da fare, dai. Tu magari ti volevi mettere la macchina, fate una passeggiata e ti ha interrotto tutto così. Sì, perché ho fatto prove di tutti i tipi, ho fatto passare il cavo in modo diverso, secondo me il cavo è il cavo batteria che già è lungo di suo, poi questo c'ha 1,5 metri di cavo, secondo me passa da lì, questo c'ha qualche watt in più anche. Va bene, un apparato veicolare che in veicolare non va bene, almeno da me non va bene. Ho provato anche con l'antenna staffa laterale, no? Con la massa effettiva sulla carrozzeria, niente da fare. A pigliarla, pazienza, dai, riprendi. Ma dove l'hai presa quella staffa? Dove la metti? Al lato dello sportello? Angolo superiore della portiera destra, la portiera del passeggero, in prossimità dell'angolo. La puoi orientare in tutte e tre le direzioni, la puoi mettere a portiera, a cofano, a baule, cioè dove vuoi la puoi mettere. È buono a sapersi, da. Comunque io penso che sia, se sta usando la magnetica, che sia la magnetica che causa qualche problema, perché io non l'ho mai avuto con la macchina mia, quando ho piazzato l'antenna sulla capota, cambiavo baracchino e andavano tutti bene. Via. Comunque ho tolto la magnetica, ho messo la stessa antenna sulla staffa laterale con tanto di massa effettiva, niente, quindi non è la magnetica. Pazienza, dai, pigliare in luce. L'hai trovata a Sassari questa staffa, Marco, per intenderci? No, la vende su internet, la vende FLQ Elettronica, MPX Elettronica, si chiama Proxel MB470, Proxel Mike Bravo 470. Adesso vado a vedere. Ehi, chi altro c'è? Capri, Chiodo, Fabrizio, Claudio? Ehi, ho sentito che stavate combattendo con l'Aringo. Guarda, io l'ho tenuto un anno, l'Aringo della LEM, quella modificata dalla LEM. Dopo un anno, per disperazione, l'ho tolta e ho messo una 5 ottavi economica. Perché dice sempre sì? Signor sì! Telefono, un attimo. Scusate, sono al telefono, a dopo, ciao. Eccomi qua. Ti ho arrugginito, fattaci attaccare questa linea. Sei proprio innamorato della LAN 48. Ecco, prego. E adesso state lì in pace, cosa ci avete? Ti ho arrugginito. Ho detto, che cosa avete adesso di stazione in base, cosa vi è rimasto? Fatti tutti io. Appagato. E dai, vengo a vedervi, me ne scelgo uno. Sta scherzando. E uno solo ne ho, uno ne vorrei magari fino, non tanto alto, dai. Per mettere, ci vuole il piano libero, per mettere quello il piano libero. E basta, dopo non occupare più nulla. Troppo alto il DAC già. Sì, si può mettere sopra quello. Cavaga, non ho capito, non ti posso accontentare io perché c'è tutto modificato d'estetica, si illuminano tutte le manopole, lo smitter illuminato, di azzurro, poi come premi la portata diventa tutto rosso. Se vuoi puoi chiudere ed ecco e uscire con la radio normale che è abbastanza forte, sembra amplificata. Però quello lì costa. Brecco. Mi bevetta che. Passaggio Falcone. Aspetta che c'è un break, va. Ciao Gianni, ascolta, vabbè adesso so che sto uscendo bene, perché ovviamente adesso voglio provare il processore e provo a tararlo. Allora, adesso sono circa 20 watt. Abbasso il Mickey Gain, in genere a quanto lo tenete questo 4,30? Chiedi a Claudio che ce l'ha lui. 2,5 Fabri, 2,5, 3, non di più. Perfetto, adesso attacco il processore, che sta dando problemi con il processore, si sta cracchiando, giusto? Sì. Ecco, gli altri occhiali, aspetta. chiama ancora? Sembra di no, prova. Ecco, guarda un pochettino, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. Oh, abbassa leggermente il Mickey Gain. Adesso ho abbassato un po' il Mickey Gain, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. Adesso è perfetto. E adesso appena appena gracchia però. Riposa. Quanto ce l'hai Fabio? Quanto l'hai messo? 2.5 o 3? Sì, sono a 2 adesso. Sono a 2, il Mickey Gain a 2. La radio sta a 20 watt, questa la vento nel 3.5, 20 watt e sono a 2. Stavo giocando col processore. Ah, sembra di no già. Per me è perfetto, per me è perfetto. Io l'ho sentito da poco fa che andava bene. Sì, sì, no, va bene Fabri così. Mi sa che lo puoi chiudere. No, c'è un altro piccolo difetto ancora, ma devo trovarlo. Adesso per il momento l'importante è che vada bene anche col processore. Lo finisco questo, poi l'altro meno 4.40 e poi devo fare un bel lavoro grossi sul tetto. Non ne posso più, sono giornate intere attaccate in laboratorio. Vediamo se con questo passaggio lungo sto uscita bene. Sì, vabbè, adesso vi lascio, devo fare una cosa col ragazzo, poi provo a fare un altro paio di passaggi per vedere, ma sembrerebbe che avevo tirato un pochettino troppo da. Stai arrivando quasi al limite, dai. Va bene Fabri, io sto ascoltando col baracchino, però va bene, ho provato col K e va bene lo stesso. Mi è battuto un altro po' il processore, perché era esagerato, quindi adesso si mette a girarsi le balle. Così va meglio. Adesso andrà ancora meglio, non voglio di attaccare l'oscilloscopio. Comunque così dovrebbe andare meglio, dai, 1, 2, 3, prove, perché sono delle bestie qua. E lo so, spinge un bel, soprattutto il 30 spinge un bel, anche il mio è così, lo tengo a 2 il processore, cioè il Mickey Gain, non 2, 2.5, ma proprio scarso, dai, se no spinge troppo col processore inserito, anche il mio deve essere tutto di là da molti. Ma il processore non si tocca come lo tocca, qui era toccato, era esagerato. Adesso vediamo un attimino, dovrebbe probabilmente era quello, era, vediamo un attimino. Adesso se mi sta andando bene mi assento un attimino e poi proseguo. Vabbè. Vabbè, se non riusciamo a tirarla fuori questa radio, però c'è un altro problema. Vabbè, a dopo. Non so dove mettere le mani, così a tocco. Lascialo acceso e poi riprova, dai. E via. Ero chiodo arrugginito, io quelle radio te le ho date, ma ti ho dato anche l'Intech, il Mobicom, ti ho dato, vabbè, il Courier, sì, le console lo stesso, quell'altro Sommercamp lo stesso, poi te ne ho dato un altro, tutto cassonato in ferro, poi non mi ricordo, comunque te ne ho dato tanti. E l'Alan 48 te l'ho dato perché io ne avevo due, tutte e due uguali omologati, nel senso che non sono stati toccati, hai visto quello quanto è nuovo. E l'altro è ancora dentro la scatola, capito? Per quello te l'ho dato, perché a me piaceva, io ce l'avevo già questo, però avevo il Zodiac, il 50-24, quello celeste, e l'ho venduto a un collezionista di Sassari, dai, per non fare nomi. Capito? E mi mancava, quindi siccome sapevo che tu ce l'avevi, ho detto vabbè se facciamo cambio, tanto a me non mi fregava niente, né di guadagnarci né di nulla, mi piaceva questo, l'abbiamo fatto, questa è nuova, funziona bene, la sto usando, però mi piace di più di quella celeste, perché quella celeste è un colore strano, mi piace, questa è tutta nera e cromata e mi piace di più, poi rispetto al 50-24 c'ha più cose questa, capito? Va bene, avanti Gianni, riprendi, mi assento nuovamente, altri 5 minuti e sto facendo cose. Via, vabbè, oh, via. E a me già mi piace come stazione di base, avessi avuto un posto ne avrei fatto tutta una parte con le stazioni di base, ma sono quelle che mi piacciono, no, non tutte, perché non mi piacciono tutte, ci sono quelle che mi piacciono e quelle che non mi piacciono. Mi devono piacere. Tipo il garage, quando lo vedo me ne innamoro. Le console bisogna stare attenti, perché l'isolazione stai male. Ehi vabbè, io c'ho tutti apparecchi nuovi, quasi tutti sono nuovi, tranne il garage, sì, sono tutti nuovi gli apparecchi, non sono di vecchia era. Diciamo che il 2009 lo faceva anche prima, ma questo qui è degli ultimi che hanno fatto, però come struttura, diciamo, tipo l'anno 48 lo facevano negli anni 70, lo fanno anche adesso, capito? No, il mio rimane bianco, luce dello smito rimane bianca. Io l'avrei preferita azzurra, mi piaceva di più, ma comunque rimane bianca la mia, c'è proprio l'ultimo ho fatto, però lo fanno sia con la luce bianca che con la luce blu. Poi Marco mi se ne intende perché ne ha avuto diversi e se ne intende più di me. Poi a me piaceva la modulazione più che l'apparato. Mi attirava come usciva di modulazione, anche col microfono normale, questo apparecchio è perfetto, proprio bellissima la modulazione. Tu intendi già vecchi, vecchi come vintage, perché questo è nuovo nuovo, questa è la vetrina, eh. Anche questo c'ha lo smitter grande celeste, però gli ho messo, tolto la pagina bianca, gli ho messo il led celeste con la resistenza, molto bella. Questa è nuova nuova, questo polma, se non gli ho arrivato il 48, io lo sai che sono preciso, ma nuova però, le cromature, tutta nuova, nuova, nuova, bella, veramente molto bella, poi funziona bene. E va, te ne ha questa, non capisco se l'hanno tirato, boh, perché? Guarda, c'ha 6 watt, 7 watt di portante bianca, quasi 10 modulati. E allora è stato modificato. Ma sai, ti rispondo un attimino anche da Ruggerito. Gli apparecchi di una volta uscivano tutti con 5 watt, adesso sono 3 watt e mezzo, 4 watt, per quello che non rendono più come gli apparecchi di una volta. Apparecchi nel senso vintage, ecco, in quel senso lì dicevo Claudio. Adesso sicuramente quello tuo Claudio è stato tirato, perché solitamente uscivano con 5 watt quegli apparecchi, ma 5 li davano tutti, perfetti, proprio come tu li misuravano 5 watt. Sì, infatti, no, questo non lo so, perché lo però è nuovo, nuovo, nuovo, veramente è tenuto veramente molto, molto bene, è lucido. Lucido, lucido, io ce l'avevo già questo modello qua, però era il Zodiac 5024 celeste, a me mi piaceva molto, c'aveva la colonnina rotonda a sinistra, uguale a questo, però questa c'è la quadrata e c'ha più cose, c'ha il filtro, l'NL, l'NB e poi c'ha il modulometro e il coso, come si chiama, era fare prestazionarie. Poi c'è il Delta Tune in più e il Mickey Gain, quella non ci aveva niente. È molto così, dai, però funziona bene, funzionava bene. Sì, caro Claudio, ma non solo, te ne ho dato anche altre da metterti, da mettere a posto tuo padre, lo stesso. E ti hanno dato 7-8 di vintage. Te ne ho dato, io adesso ne ho 3 sole, 3 basi e basta. Non ho migliorato perché intanto non... Vabbè, posso già ne ho un bel adesso. Ho fatto fuori tutta la parte HF e tutto quanto. Quindi potrei anche prendere qualcosa, ma non mi interessa. Bastano questi qua, giusto per fare due chiacchiere. E avanza. Va bene. Ma chi c'è? Anche Marco Condor? No, c'era anche Marco Condor, avanti ma. Devo lui scommetti, adesso vediamo di più che le capo, perché sono facciabile e lo so. Camere siciliane. Ci dirò, no, da rete, mi sto fare solo, non lo taglio e c'era rete. Eppure si può fare. Però quando si prova a stare con la telefono, vedi male un po'. Attenzione Napoli, ascolti l'isola sarda, cambio. Oh, guarda, ma hai tirato questo. A Napoli, a Sicilia. Tu minchia, vuol dire siciliano. No, è napoletano questo qua. Non siamo altri sentire minchia. Attenzione Napoli, ascolti l'isola sarda, cambio. Minchia, sta come ti fa vita, non te ne accorgi. No, non ci capisci un cazzo. Riprendi chiodo, parla con Gianni che sto facendo cose io, riprendi. Io non lo sento neanche dal registro, lo passa in napoletano. Attenzione Napoli, ascolti l'isola sarda, cambio. La bella Napoli. Prova che la logica sta abbassando la propagazione. Stavo un po' tra loro, non ti rispondo intanto. C'è una questione locale, sicuramente a voi tante volte quando ci chiamano e non rispondiamo perché stiamo facendo pressa locale e ci danno fastidio. Ma non dovrebbe essere così, dovremmo rispondere sempre e inserire le questioni. Calma, chiamo il rifinito, come ti sta arrivando adesso di segnale io, con l'antenna messa a posto? Diciamo, se devono trovare un canale più pulito, perché qua ti parlano sopra a volte, ti parlano sopra e ti crepano. E io chiamo il rifinito, adesso io attacco, metto l'ecco, dimmi quando va bene. Guarda, controlla, ora deve essere un po' basso, non deve disturbare, però si deve sentire. Adesso sto mettendo l'eco, guarda, 1, 2, 3, prova. Guarda adesso, anche così, guarda, 1, 2, 3. Ma un pochettino quanto, poco poco. No, è la batteria che si è scaricata sicuramente, non è possibile perché di solito come lo andava appena appena l'eco si dice, ah, passa, passa. Cioè, c'è un manettone e non mi senti e non lo senti quasi, ma adesso è molto forte l'eco. Guarda, adesso lo sto abbassando, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, guarda come va, guarda, 1, 2, 3, prova, guarda, sì sì, lo posso sollevare, dimmi se lo devo sollevare, io lo sollevo, guarda, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ehi, ma comunque in ogni caso ci deve essere la batteria scarica, perché questo qui di da come lo metti via uno c'era già l'eco, adesso è quasi a manetta e non si sente, ma lo so, vabbè, adesso c'è l'effetto cardinale, così è. Gabbarino elegante. Chi è? Avanti, avanti, che è il gabbarino. Ma è aperta di YouTube. Ma io vedi tu che c'era la testa, io l'altro giorno sono andato alla Davide e mi ha detto che sabato, giù. Sono andato alla Davide e mi ha detto che era qua Giulio, e te non mi ha fatto nulla, no? Perché non ci sono salito? Te l'ho detto, fa appena che ci salgo. Ah, la Davide mi ha detto che lì, che di magazzino, boh, non lo so. Così mi ha detto, mi ha detto, lo sabato sono passato alla Davide che dovevo comprare roba. E gli ho detto, Giulio, passate, mi ha detto, no, non è passato qua, comunque guarda che il magazzino è nel coso, nell'ufficio. Ho guardato, era chiuso, cose di genere. E quando però? Quando? Io la mattina, io ho trovato la sera a te. Una col civile qua. No, ma me l'ha detto prima, me l'ha detto forse verso giovedì che lo faccio. Poi io sabato sono passato, ma non per quello, sono passato per altre cose. E gli ho chiesto se ci sei ripassato, ma niente di che, pensavo che magari fossi passato, poi se non è passato lo facevo nulla, ci ho tentato. No, io te l'ho detto sabato sera, c'ero sabato mattina io lì, ma sabato sera ti avevo parlato dei scusi, delle capo.